Capitolo 2. Il racconto di Brigid. Sono Brigid, figlia di Bride. Vissi nella terra di Eriu nel quinto secolo del tempo terrestre. Nel mio corpo scorreva sangue regale del clan dei Conjobair e sangue di schiave intrecciatrici di giunchi. Fu il druido Maithin a presentire il mio ingresso nel mondo, il giorno di Imbolc, nel 25° anno del regno di Alaogair, figlio di Nial, dei 9 ostaggi. E il druido accese il sacro fuoco di Bride nel Rath, Yom Gan, e restò tutto il giorno in preghiera e raccoglimento. Ma a mezza mattina cominciò a salmodiare un canto che gli veniva trasmesso dalle fiamme stesse, il canto della meravigliosa infanta che stava venendo attraverso un ventre di donna. La madre del mio corpo, Brocassa, figlia di Luacra, era soprannominata figlia dei giunchi e fu con quel nome che Dufak, il grande guerriero capoclan dei Conciobair, mio padre, la conobbe e la amò. Ma sua moglie era gelosa e odiava mia madre. Brocassa fu rimandata su un carro nel cuore della notte dal druido Maithin, che già l'aveva ospitata prima che Dufak la comprasse come schiava. Il druido la aspettò, scalzo e senza pastrano, accanto al fuoco sacro, che le fanciulle del fuoco mantenevano sempre acceso. La sua serva, che gli voleva bene, lo sgridò aspramente poiché temeva per la sua salute. Ma il vecchio saggio, senza scomporsi né smettere di sorridere, attese imperturbabile l'arrivo di mia madre, scacciata dalla moglie di mio padre. E quando il carro giunse al luogo del fuoco sacro, egli la accolse e la ricondusse dolcemente nella stanza che era già stata sua. Passò un anno dal giorno in cui Brocassa conobbe Dufak. Mentre era nella casa del druido, mia madre aveva creato un legame con una mucca mansueta e dagli occhi buoni. Appoggiava la testa al suo ventre e trovava consolazione alle sue pene. Era di nuovo Imbolc e Brocassa si accostò alla bella mucca. Le parlò, come pregando: «Oh, chiara fatrice, che mai il fango ha sporcato né il sole bruciato. Quando sono con te le mie pene si disperdono. Sono schiava, figlia di schiava, ma nei tuoi occhi e nel tuo dolce latte trovo la forza per continuare a vivere e per dare la luce alla figlia che porto dentro di me. Lei, lo so, un giorno sarà libera». Il druido Maithin passò tutta la vigilia di Imbolc, la notte in cui venni al mondo, sveglio accanto al fuoco sacro con le 8 fanciulle del fuoco. C'era un forte senso di aspettativa. Le fanciulle si divisero in due gruppi: un gruppo vestito di bianco, con i capelli acconciati a spirale intorno al capo come corone, dava le spalle al sacro fuoco e cantando portava le vecchie braci di Samhain lontano dalla fiamma viva, offrendole allo spirito della stagione che se ne andava. L'altro gruppo, invece, stava di fronte al sacro fuoco. Era composto dalle fanciulle più anziane, le quali dovevano accogliere il nuovo tempo che stava nascendo. I loro abiti erano color della terra e i capelli ricadevano liberi sulla schiena. Le braccia erano alzate verso il sacro fuoco, con i palmi delle mani aperti e rivolti alle fiamme. In un recipiente d'argento stava l'acqua pura della fonte prelevata il giorno prima. Ogni 99 respiri le fanciulle brune intingevano le punte delle dita nell'acqua e spruzzavano il sacro fuoco ringraziando la creazione per la nuova nascita. Per tutta la notte le cerimonie si susseguirono e la gente del clan, sempre più numerosa, si avvicinava al sacro fuoco per partecipare. Dufak, come gli altri capiclan, aveva il suo posto assegnato. Cercava mia madre con lo sguardo, ma lei non c'era. Tra la prima e la seconda mungitura, lei aveva camminato verso nord ed era entrata in un boschetto di querce, sedendo immobile su una roccia. Brocassa sembrava lei stessa una pianta. Fu così che mio padre la trovò. Sedette accanto a lei e le rammentò ancora una volta che era lei la sua amata. Le mise al dito il pesante anello dei suoi antenati, poi, insieme, camminarono nell'oscurità e tornarono ai loro doveri. Le mucche andavano munte, anche di festa, e lei si avviò verso la sua dolce amica dalle lunghe corna. Le appoggiò la fronte contro il ventre e, mentre la mungeva, si assopì e sognò. La dea le venne in sogno, le parlava con dolcezza e le annunciava che sua figlia stava per entrare nel mondo. Broccassa si svegliò per terra, mentre io ero per metà fuori dal suo ventre. Si aggrappò alle zampe della mucca e mi spinse fuori in mezzo al fango, mentre l'alba di Imbolc nasceva e i canti e i tamburi aumentavano d'intensità. Non c'era nessuno a soccorrerla. Tutte le donne erano al fuoco sacro, ma la mucca abbassò la testa e cominciò a lambire la mia pelle con la sua ruvida lingua. Mi pulì e mi scaldò. Poi mia madre, che ancora sentiva la voce della dea dentro di sé, la udì cantare: La la la, la piccola ha fame, dalle il tuo latte. Allora mi raccolse da terra e accostò la mia bocca vorace alla mammella, ed io fui la figlia di Imbolc. Più tardi mio padre venne a trovare me e mia madre nel nostro giaciglio. Dormivamo, ma io sentivo la sua enorme presenza. Egli era un gigante, un grande guerriero della casa di Conn. Eppure si inginocchiò accanto a noi e lo udii piangere. Giunse il druido e gli chiese la causa delle lacrime. Dufak confessò al vecchio saggio che non poteva dare la libertà a mia madre, né sposarla, poiché sua moglie, per proteggere i suoi figli, aveva preteso nel contratto di matrimonio che per ogni figlio maschio le fosse assegnata una parte del bestiame e dei campi di Dufak. Ed ora, dopo 6 figli maschi, tutte le ricchezze di mio padre erano passate nelle mani di sua moglie, tanto che egli non possedeva più nulla ed era impotente verso di noi. Questo sentii nei miei primi momenti in quel piccolo corpo che dormiva tra le braccia di Broccassa. Il druido Maitin si offrì di continuare ad ospitarci e così fu fatto. Fummo molto amate, mia madre ed io, dal druido, dalla sua buona serva Tuamnait e da mio padre che ci visitava spesso poiché c'era stato assegnato un alloggio tutto nostro. E quando mio padre veniva, eravamo come una vera famiglia. Spesso mi chiedevo da bimba perché non potessimo stare tutti insieme, ma ora so che nel mondo dei guerrieri nemmeno le loro donne sanno stare in pace insieme. Dormivo in una cesta di giunchi. E la buona Tuamnait mi nutriva con il latte che scaldava nella brocca del druido, a cui aggiungeva 3 gocce di miele e una spruzzata di acqua della fonte, che veniva dal sacro pozzo di Iniscè, l'isola delle fanciulle del fuoco. Mi imboccava con un piccolo cucchiaio d'argento che apparteneva al clan da molto tempo e mi parlava della buona mucca da cui veniva quel latte, la mucca che mi aveva aiutata a nascere. Poi, da lontano, giungeva il rombo delle ruote del carro di Dufak. Mia madre indossava il bell'abito che lui le aveva regalato, mi prendeva tra le braccia e insieme uscivamo ad aspettare mio padre. Tuttavia, nonostante l'amore del druido e la sua grande influenza sulla nostra vita, mia madre, siccome aveva saputo da sua madre che i cristiani condannavano la schiavitù, volle che fossi battezzata. E lo fui nel mio giorno 28°, nella neve del Rat, da Tuamnait, avvolta in uno scialle di finissima lana. Ma mia madre voleva il vescovo Patrick, e mio padre, sebbene credesse negli antichi dei della nostra gente, lo fece venire. Gli inviò 12 pelli di vitello conciate, 10 misure di idromele e la promessa di 20 misure di gran turco ancora da nascere. Tanto costò a Dufak il mio ingresso nella cristianità, ma Broccassa lo desiderava e Patrick venne. Fui portata sulla cima della collina del re che si chiamava Leaba Soluis, luce nascente, e spruzzata con l'acqua del vescovo nel mezzo delle 7 pietre miliari al tramonto. Mia madre era abbigliata come una regina, alta e bella, con l'anello di Dufak al dito. La vidi felice. Così mio padre le chiese che nome voleva per me. Gli fu risposto che fosse quello di una dea. Voleva il nome della dea del sacro fuoco di Imbolc per la sua creatura e fui Brigit, figlia di Bride, dal triplice volto. Ma mia madre aveva ancora un'ultima richiesta per Dufak, un ultimo desiderio, che sua figlia fosse libera. E infine lo fui, ma non subito. Passavano gli anni e io crescevo. Mia madre mi parlava sempre di Patrick e dei cristiani che non avevano e non volevano schiavi. L'unico suo sogno era quello che io fossi affrancata dalla schiavitù, e perciò le sembrava che avvicinarmi ai cristiani di Patrick fosse la via più efficace, ma a me sembrava che lui e il buon druido Maitin fossero così simili. Avevano la stessa aura e lo stesso sorriso, e quando Patrick passava dal nostro Rat durante i suoi viaggi in aereo, si fermava sempre qualche giorno, poiché i due saggi uomini erano amici e fratelli spirituali. Io li ascoltavo, seduta accanto a Maitin, e non sentivo differenza alcuna nelle loro idee. Essi si apprezzavano reciprocamente e si amavano di amore fraterno. Patrick, scherzando, raccontava a Maitin che aveva preso le sacre cerimonie dei druidi e le aveva travestite da riti cristiani per far sì che il popolo pregasse la Vergine Maria anziché la Dea Madre, e suo figlio Joshua anziché il Dagda. Aveva messo al corrente il vecchio druido che nel giorno di Beltane, mentre tutti erano riuniti sulla collina di Tara per accendere i sacri fuochi, anche lui aveva acceso un falò eterno dedicato alla Pasqua dei cristiani sulla vicina Hill of Slain. Aveva sfidato il grande re per essere riconosciuto, e poiché gli dèi non lo avevano incenerito, fu legittimata la sua esistenza, e sempre più gente del popolo gli si rivolgeva. Io mi chiedevo quale utilità ci fosse nel cambiare nome a qualcosa che già esisteva, rivendendolo per nuovo, ma naturalmente c'era la questione della schiavitù. Quella era la novità cruciale, poiché spinse nelle fila del giovane movimento cristiano l'enorme massa degli schiavi in tutto il continente. Ma anche c'era il fatto che le leggi druidiche erano molto più complesse di quelle cristiane. Al druidismo si potevano accostare solo i ricchi o i colti o gli intelligenti. Il cristianesimo era per tutti. Compì 5 anni e il grande re di Erio, Laogair, figlio di Nial dei Nove Ostaggi, dopo 30 anni di regno morì. Si dovette nominarne uno nuovo e la dea Mor Riogain si compiacque di dare il suo consenso a Oeliolmolt. Il druido mi spiegò che era la dea a scegliere il grande re. Colui che lei sceglieva tra tutti i candidati diveniva il supremo. Senza il permesso della dea, nessuno, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, poteva essere cantato dalla Liafail, né poteva sedere sul trono a Tara, poiché la dea incarnava il potere della terra ed era la madre di tutti i viventi. Il consenso della dea era ciò che rendeva l'aspirante tra i re sacro di diritto. Dentro di me io chiedevo al dio dei cristiani di rendermi libera, ma pregavo la dea di darmi la visione del mio piano di vita. Sapevo fin da piccola che ero venuta per fare qualcosa di speciale, ma non sapevo che forma dare ai miei presagi. Quindi attendevo, ascoltando mia madre, il druido e il vescovo e i racconti della buona Tuamnait. Quando la moglie di mio padre seppe che Dufak faceva visita a me e a mia madre tutti i giorni, si infuriò e lo minacciò di togliergli i figli. Gli fece giurare di obbligare il druido a venderci a un'altra fattoria, dove Dufak non avrebbe più potuto vederci. Ma il buon druido Maitin ancora una volta usò il suo cuore e la sua parola per addolcire le ire della donna, fece in modo che fossimo comprate da suo fratello, il druido Breas, al quale chiese di trattarci con riguardo. Così ci preparammo alla partenza. Prima di salire sul carro che mi avrebbe portata via da ciò che conoscevo e amavo, andai al fuoco sacro e lo ringraziai. Poi mi inchinai ad ognuna delle fanciulle del fuoco e infine abbracciai stretto il druido Maitin più che potevo. Io avevo il cuore disperato e nei suoi occhi c'erano lacrime. Ma la dea era benevola verso me e mia madre. Il druido Breas fu gentile e generoso. Mi permetteva di aiutare Brocassa a fare il burro e a badare alle pecore. E sua sorella Monfind, che era così simile alla vecchia e cara Tuamnait, mi parlava dei cristiani della piccola comunità dove aveva vissuto in gioventù. Come membro di un'altolocata famiglia druidica, Monkfind portò molto lustro alla comunità cristiana e fu una delle maggiori operatrici della fusione tra l'antica tradizione druidica, che aveva studiato alla scuola dei druidi insieme ai suoi due fratelli, e le nuove comunità che pregavano Joshua il Nazireo. Era una donna sapiente, Anche alla scuola di Patrick aveva appreso velocemente molte cose, incluso il latino. Il druido Breas, suo fratello, vedendo che quotidianamente entravamo nella piccola biblioteca del Rat, si convinse che Monkfind mi stava istruendo per diventare druida, e la cosa gli faceva molto piacere. E forse non aveva torto. In effetti, pur rifugiandomi più in là negli anni nel cristianesimo, sia per evitare il matrimonio che mio padre mi aveva combinato, sia perché il culto dei cristiani condannava la schiavitù e mi sembrava in quel modo di riscattare tutte le pene di mia madre, io nel mio cuore amavo le leggi e le pratiche del druidismo, amavo operare con gli elementi e con gli alberi e gli antichi simboli della nostra gente e soprattutto amavo il sacro fuoco di Imbolc, di cui ero la figlia. Così, in quel periodo ebbi due madri. Brocassa, la madre del mio corpo, mi insegnava le cose pratiche che una donna deve sapere nella vita quotidiana, mentre Monkfind, la madre della mia anima, mi istruiva nelle vie dello spirito. Infatti, la saggia donna chiese e ottenne da Breas e da mia madre il permesso di occuparsi della mia istruzione. Così studiavo con Monkfind le storie dei cristiani, insieme alle tradizioni della nostra gente, quelle di Joshua e quelle dei Tuatha De Danann. Mi incitava a non dimenticare mai le mie radici ed io ottenni così una piena e completa preparazione druidica. La mia maestra mi diceva che il druidismo e il cristianesimo erano complementari come l'alba e il tramonto e, diceva, si armonizzavano dentro di me, poiché io ero la figlia della luce. Fu lei a insegnarmi a scrivere e a leggere, e fu sempre lei a regalarmi il mio primo calamaio, pieno di inchiostro dorato, ricavato dal tuorlo dell'uovo. Lo amai dal primo momento e lo conservai gelosamente. La mia maestra mi condusse in pellegrinaggio ai sette pozzi di Uibfaili. Lasciammo il carro sulla riva del Boan, bevemmo la sacra acqua e pregammo la sorgente per un nuovo inizio. Poi camminammo in circolo attorno ad ognuno dei sette pozzi e arrivando all'ultimo innalzammo una preghiera speciale. Poiché io crescevo e Breas non era più molto contento di vedere che passavo la maggior parte del mio tempo studiando. Dovevo lavorare e guadagnarmi il pane. Così era andato da mia madre e l'aveva costretta a farsi carico del lavoro supplementare che io non espletavo. Mia madre deperiva, sebbene il suo cuore fosse lieto per me. Monkfind ebbe così l'idea di rimandarmi da mio padre affinché prendessi il posto che mi spettava come figlia del capoclan. Ma non aveva tenuto conto della moglie di mio padre e dell'odio che ella aveva per mia madre e quindi per me. Brechtan, così si chiamava la donna, viveva per condannare e punire ogni mia mossa e parola, e mio padre veniva continuamente chiamato in causa per giudicare le mie malefatte. Ma questo suo comportamento mi forgiò, mi addestrò alla compassione, poiché anche lei aveva sofferto quando suo padre l'aveva separata a forza dalla sua amata nonna, cacciando di casa l'anziana donna. Brechtan aveva semplicemente scelto di rifarsi della sua sofferenza, vendicandosi su me e mia madre. Avrebbe potuto scegliere la compassione, ma così io non avrei imparato. Poco prima di morire, il druido Maitin aveva consegnato a mio padre il segreto relativo alla mia nascita, che teneva nel cuore da tanti anni. Raccontò a mio padre che la notte di Imbolc in cui io venni al mondo si allontanò dal sacro fuoco, accanto al quale era suo compito vegliare, per prendere un po' d'aria. Senza accorgersene, come guidato, si trovò nelle vicinanze della capanna dove alloggiava mia madre, che si era già ritirata. Confidò a mio padre che intorno alla capanna c'era un alone luminoso che sembrava quello di un falò, ma nessun fuoco era acceso vicino alla capanna. La luce che la avvolgeva veniva dal mondo degli spiriti. Era una luce soprannaturale e in quel momento Maitin aveva compreso che Brocassa aveva donato al mondo una creatura che avrebbe avuto un ruolo nel piano divino, un ruolo speciale. Purtroppo, nonostante appartenesse al lignaggio di Con delle 100 battaglie, mio padre era un uomo debole. Non fu mai in grado di imporre a Brechtan la sua propria volontà. Egli le permise di tormentarmi e si stupiva di come io reagissi sempre col sorriso. Non comprendeva che io vedevo, Vedevo il piano così chiaro davanti a me e sapevo ciò che avrei fatto. Non nei dettagli, certo, tuttavia nel profondo sapevo che sarei sempre stata io sola la padrona di me stessa. Quando la moglie gli impose di vendermi, poiché io donavo ai poveri e malati parte delle abbondanti scorte alimentari del RAT, Dufak, mio padre, decise di portarmi via. Avevo appena compiuto 16 anni e si poteva, a suo avviso, stipulare un buon contratto di matrimonio. Sangue reale scorreva nelle mie vene e mio padre pensava in quel modo di liberarmi dall'oppressione di Brechtan, facendole contemporaneamente credere di avere obbedito ai suoi ordini. Così, dando mio marito illustre, mio padre pensava di onorare il segreto sulla mia nascita che il druido Maitin gli aveva confidato col suo ultimo respiro. Mio padre mi avrebbe combinato il miglior matrimonio che si potesse augurare a una fanciulla. Ma io non ero dello stesso avviso e avevo altri progetti. Lo sposo che mio padre aveva scelto per me era un uomo di conoscenza, un bardo. Amavo ascoltarlo cantare, ma il mio destino non era quello di essere una moglie, né sua né di nessun altro. Poiché mio padre non intendeva ragione, decisi di sfigurarmi il viso per distruggere quella bellezza che veniva venduta al posto del mio cuore a un marito. Di fronte a tale azione, mio padre capitolò, mi restituì la libertà e fu come donna libera che abbandonai lui e il Rat. Mi diressi a Fotarta, dove una saggia donna di nome Monnena aveva radunato 9 sorelle spirituali e aveva creato un luogo di pace e bellezza. Un monastero dove potessero vivere insieme in preghiera, meditazione, servizio e studio. Quella era la mia prossima meta. Bussai e fui accolta. Rimasi 2 anni con la saggia e buona Monnena che dopo Tuamnait e Mongfind mi diede amore e istruzione. Ebbi la gioia di trovare nella sua casa 2 consorelle che erano state fanciulle del fuoco presso il druido Maitin, Derlugdaha e Nibugi. Si erano rifugiate nella casa di Monnena dopo aver trovato la vecchia Tuamnait morta in una caverna. Con la morte della vecchia serva, la casa del druido aveva cessato di esistere. Fu il segnale per loro che le loro vite sarebbero cambiate. L'affetto che ci univa era grande. In quei 2 anni, sotto la guida della saggia Monnena, perfezionai il mio latino e la mia scrittura. Appresi le leggi non solo dello spirito, ma anche della mia terra, quelle che regolavano la vita delle comunità, dei campi e del bestiame, e senza quasi accorgermene, avevo imparato come dirigere a mia volta una piccola comunità. E poiché avevo una visione, e ciò traspariva dai miei occhi, le mie compagne cominciarono spontaneamente a seguirmi, benché più anziane di me. Derlugdaha e Nibugi furono le prime a offrirsi di seguirmi qualora avessi deciso di fondare una casa di fanciulle. Si aggiunsero Eitne, Blanaid, Kaelain, Mugain e Fedelm. Molte di loro erano figlie di Capiclan e avevano abbandonato ricchezza e comodità per poter studiare a Fotarta. Una sera, davanti al fuoco, sotto la luna piena, decidemmo di intraprendere un viaggio attraverso Erio, per trovare il luogo adatto a fondare la nostra casa di fanciulle. Tutte avevamo il desiderio di servire il piano divino, rimanendo però libere e padrone della nostra vita. Per viaggiare da sole attraverso le terre dei rissosi re d'Irlanda, l'unico modo era prendere i voti, e così facemmo. Di lì a poco diventammo tutte vergini consacrate. Il giorno della cerimonia, accaddero 2 fatti particolari che interpretai come segno della volontà che mi muoveva. Insieme alle mie 7 sorelle fui consacrata dal vescovo. Quando fu il mio turno, per ultima, il brav'uomo ripeté ad alta voce le parole scritte sul messale dal suo aiutante. Ma giunto alla fine, ebbe, forse a causa della stanchezza o della scarsa luce dell'imbrunire, un cedimento della vista e davanti ai suoi occhi si confusero le parole dell'ultima frase rituale. Così, anziché io ti consacro Brigida Cristo per volontà del vescovo, egli lesse io ti consacro Brigit vescovo per volontà di Cristo. Si accorse dell'errore quando ormai aveva pronunciato la frase e sebbene fosse stato da tutti forzatamente riconosciuto che si era proprio trattato di un errore, La frase era stata letta in nome di Cristo durante la consacrazione e aveva a tutti gli effetti valore legale e spirituale. Quando poi fu passata la candela sul mio capo velato per la benedizione, ci fu un momento di silenzio attonito, come di fronte a un evento magico. Io non mi accorsi di nulla, ma le mie consorelle mi riferirono che la fiamma si era tripartita e avevano cominciato a zampillare scintille, le quali avevano creato intorno a me una cascata di luce. Tutto ciò fu naturalmente interpretato come un prodigio e le persone presenti, nell'allontanarsi, ripetevano tra sé come una filastrocca: Brigit è colei che è stata scelta, Brigit è colei che è stata scelta, Brigit è colei che è stata scelta. I festeggiamenti durarono 5 giorni e 5 notti, come nei matrimoni della tradizione pagana. Si mangiò e si beve e si cantò. Ma io, chiusa nella mia piccola stanza di meditazione, mi preparavo a lasciare l'accogliente sicurezza di Fotarta per andare fuori nel mondo, senza sapere dove né come avrei guidato, io la più giovane, le mie 7 sorelle. Sentivo dentro di me l'urgenza di partire, ma ne ero atterrita. Alternavo momenti di estasi e chiara visione a momenti di sconforto e panico. Ma tant'è, anche i festeggiamenti terminarono e giunse, infine, il momento del commiato e anche il terzo miracolo. Mi mandarono a chiamare. Un uomo voleva vedermi. Uscii e incontrai colui che mi aspettava. Aveva lunghi capelli ed era vestito come un capoclan, con una grossa spilla d'oro a fermare il mantello. Mi guardò e disse: Non sono un uomo di molte parole. Ho ricevuto in lascito da un parente senza eredi un appezzamento sulle colline con una fattoria, accanto al fiume dei salmoni. La fattoria è composta da 5 case di pietra, circondate da nocciolì, e vi sorge anche, poco distante, un piccolo cerchio di pietre erette. Io ho già una casa e non posso vivere in 2 luoghi allo stesso tempo. La casa, la terra, il fiume e gli animali sono tuoi, se li accetti, sacra fanciulla. Rimasi senza parole di fronte a tanta generosità e tempestività. La risposta alle mie necessità era lì, di fronte a me. Ringraziai calorosamente il buon uomo e accettai senz'altro. Lui ripartì subito per tornare all'appezzamento e prepararlo per l'arrivo della sacra fanciulla, come ormai mi chiamavano, e delle sue sorelle. Il luogo donatoci ci permetteva di vivere del nostro. Aveva terra e bestiame e pesca. Il suo nome era Ratpui. Divenne la nostra casa e anche il primo monastero che fondai. Quando arrivammo col nostro carro e i nostri pochi averi, trovammo ad aspettarci Fiah ed altri capiclan che avevano portato in dono altro bestiame e sacchi di grano e barili di birra. Il re aveva inviato in dono degli schiavi per lavorare la terra. La prima cosa che feci fu liberarli e offrire loro di rimanere a lavorare per il monastero come uomini liberi. Il mio pensiero corse a mia madre, che ancora era schiava, un pensiero che sempre più spesso mi stringeva il petto. Decidemmo di utilizzare le 3 case più piccole come dormitori, la quarta come luogo di preghiera, mentre la casa più grande la trasformammo in luogo di accoglienza per i poveri, i viaggiatori, i malati e i senza tetto. Di nuovo pensai a mia madre. Offrivo la mia vita ad aiutare ogni derelitto che veniva a chiedere e non facevo nulla per la mia propria madre. Il pensiero mi faceva dolere il cuore. Nel monastero svolgevo le mansioni che avevo imparato aiutandola, mi occupavo degli animali, mungevo, facevo il burro e il formaggio, aiutavo a cucinare, a tessere, mi occupavo dell'amministrazione e presenziavo ai momenti di preghiera e meditazione. Inoltre, servivo il cibo ai poveri e insegnavo loro storie che li aiutassero a comprendere i misteri della vita. Passarono 3 anni senza che quasi me ne accorgessi. Eravamo ora 60 sorelle. Avevamo una regola che avevo scritto, mescolando quelle cristiane di Monnena con quelle druidiche delle fanciulle del fuoco. Venivo spesso sentita per questioni non solo spirituali, ma anche concernenti il territorio, le contese, il bestiame e tutto ciò che aveva a che fare con la vita quotidiana. La gente del posto si rivolgeva a me come guida spirituale e come giudice nelle controversie. rivestivo pienamente il ruolo di druida, ma sentivo che era ora di lasciare Ratbui e riprendere il cammino per fondare un altro monastero. Esposi il progetto alle 7 sorelle che erano con me fin dall'inizio e loro mi confermarono la loro volontà di seguirmi ovunque andassi. Ci fu offerto di trasferirci ad Ardakad, dove per il momento avremmo abitato in casa di chi accettava di ospitarci, attendendo che un vero e proprio mastro costruttore con i suoi operai costruisse un monastero secondo le mie indicazioni, con una grande sala comune, il refettorio, la cucina, la cantina, un piccolo oratorio, la chiesa, lo scriptorium, i laboratori artigianali, l'ostello per pellegrini e indigenti, celle singole per ognuna di noi, più, nella mia, uno spazio supplementare per i colloqui. All'esterno un piccolo spazio che avremmo utilizzato come cimitero, il giardino, il campo e lo spazio per i cavalli. Il monastero richiese 2 anni di lavoro e nel frattempo la comunità delle sorelle era cresciuta a 50. Il giorno dell'inaugurazione ricevemmo molti doni, ma il più bello fu una piccola campana che appendemmo al tetto della chiesa. Lo inviavano da Ratbui. Ci avrebbe permesso di mantenere il legame con le nostre sorelle lontane attraverso il suono che si sarebbe propagato nell'aria. Il mio ruolo di badessa prevedeva infinite incombenze amministrative e giuridiche, ma nel pomeriggio uscivo e andavo a visitare le famiglie, ad aiutare chi aveva bisogno, sia con preghiere che con un paio di braccia in più. Il lavoro fisico mi faceva bene e lo eseguivo volentieri, nei campi, nella stalla, nel frutteto, in cucina e nella lateria. Non fui mai capace di rinunciarvi. Derludaca, che per me era stata una sorella e a volte una madre, poiché era più anziana di me, ci lasciò dopo qualche mese. Lei e il maestro costruttore si amavano ed io le diedi la mia più sincera benedizione, nonostante le lacrime della separazione ci rendessero quasi impossibile il salutarci. Le chiesi di essere una brava madre e moglie per gioire di ciò che io non avrei conosciuto in quella vita, la maternità e l'amore di un uomo. La mia vita era consacrata al servizio e sapevo che mai avrebbe potuto prendere una direzione diversa. Le cose andavano di bene in meglio nella nostra nuova casa, ma io avevo un macigno sul cuore che andava via via facendosi sempre più insopportabile. Mi occupavo di tutti i malati e bisognosi che mi tendevano la mano e non avevo ancora visitato mia madre. Non l'avevo ancora riscattata dalla schiavitù. Le mie sorelle si accorsero che questa tristezza aveva cominciato ad appannare la mia aura e mi obbligarono a confidarmi. Quando seppero di cosa si trattava, mi misero fuori dalla porta del monastero, senza tanti complimenti, dopo aver caricato sul carro vettovaglie per un mese, e mi spedirono da Brocassa con l'ordine di non tornare prima di aver mangiato tutto. Con gli occhi umidi e il cuore grato per questo slancio d'amore, partii con la vecchia cavalla e il carro che c'era stato donato a Ratbui. Quando giunsi a Rat di Breas e vidi mia madre, non potei trattenere un grido, mentre le ginocchia mi si piegavano alla sua vista. La bellezza che fu Brocassa, la donna forte e regale, si era trasformata in un fagotto di stracci, magra e rinsecchita, con gli occhi pieni di pus. Per un mese mi presi cura di lei, la curai e la nutrii e sbrigai il suo lavoro alla lateria del druido, sperando che così la liberasse. Brocassa non si stancava di guardarmi, via via che gli occhi le guarivano e riusciva a mettermi a fuoco. Mi disse che sentiva continuamente parlare di Brigit, la sacra fanciulla, la vergine che sfamava e curava tutti coloro che le si avvicinavano con la mano tesa e che aveva anche compiuto diversi miracoli, la benedetta figlia di Dufak. La gente parla di te, chiamandoti figlia di Dufak, sospirò, senza amarezza, ma tu sei anche figlia di Brocassa. Dal mio ventre sei uscita nella notte di Imbolc, figlia mia, non dal ventre di tuo padre. E di questo sono fiera. Tu sei il mio riscatto e la mia libertà. Per questo ho vissuto e lavorato tutti questi anni. Madre, piangevo, io ti ho abbandonata per così tanto tempo. Mi sono presa cura di migliaia di bisognosi e non ho trovato il tempo di venire a prendermi cura di te. Anche io abbandonai mia madre, figlia, rispose accarezzandomi dolcemente, e non sono mai più tornata a cercarla, ho conosciuto l'amore di tuo padre e di una figlia che tutti considerano santa. La mia vita è stata ricca e le mie fatiche ricompensate. Il druido non mi libererà se non in cambio di una borsa d'oro. Breas, con la morte della sua buona sorella Monkfind, che era stata per me un'altra madre, oltre che maestra, era infatti diventato un vecchio meschino e avido. Rifiutò qualunque offerta che non fosse oro. Così andai al mercato e vendetti il carro e il cavallo, e con il ricavato comprai la libertà per mia madre e la casa della buona sorella del druido per sistemarvela, poiché Brocassa non voleva partire con me. Non avrebbe più dovuto lavorare per il druido. Affidai mia madre alle cure di buona gente locale che mi aveva conosciuta bambina e con la promessa di tornare appena possibile, ripartii per Ardahad a piedi. Mi chiamavano Sacra Fanciulla e mi attribuivano miracoli, ma io in realtà praticavo le arti sciamaniche, conoscevo le erbe e i rimedi, entravo in uno stato di empatia e amore con gli animali, specialmente con le volpi e le mucche che erano i miei animali totem. Inoltre sapevo come usare i suoni per evocare visioni e addolcire i cuori, e vedevo. Avevo ricevuto una buona preparazione druidica ed ero versata nelle pratiche di guarigione e preveggenza, sebbene le svolgessi all'interno dei culti cristiani perché fosse protetta la mia libertà di donna. I miracoli che mi venivano attribuiti erano nient'altro che la conoscenza sciamanica e druidica che avevo acquisito. In quella mia incarnazione avevo contribuito all'armoniosa fusione tra l'antico culto nativo alla Dea Bride e il nuovo culto cristiano che a quell'epoca, nella mia terra, non era ancora stato infettato dalla violenza e dalla ricerca di potere e ricchezza del clero. La chiaroveggenza, tuttavia, diversamente da quanto avveniva nei tempi antichi, era considerata dalla mia gente una magia. Io avevo scelto di manifestarmi come cristiana in forma ufficiale, ma nel mio cuore ero la figlia del sacro fuoco di Imbolc e la mia gente veniva a consultarmi sul futuro e a parlarmi dei sogni e dei presagi che riceveva perché io ne comprendessi il messaggio. Giunse il momento di ripartire di nuovo. Speravo che questa volta avrei trovato il luogo definitivo per me e le mie sorelle, e la Dea Bride, nemesi della Grande Madre che il mio nome celebrava e che pregavo nel mio cuore, mi guidò verso est. Le chiesi di darmi un segno, un presagio, che mi indicasse il luogo nel quale lei desiderava che creassi la mia ultima casa per me e le mie sorelle. Camminammo insieme al carro carico dei doni che avevamo ricevuto per il nuovo monastero, fino a che giungemmo al Droimkriad, il ponte sul chiaro fiume che lì scorreva e ingioiellava la terra. Ci fermammo a riposare. Attraversai il Curragh, il grande pascolo. Mi stesi ai piedi di una quercia ed entrai in uno stato meditativo. Ebbi una visione chiarissima della mia infanzia quando mi acciambellavo tra le radici della sacra quercia del druido Maitin, sognando di viaggiare attraverso la mia terra per conoscerla tutta. In quel momento mi giunse dai rami il cinguettio di un pettirosso, il messaggero dell'oltremondo. Compresi che quello era il segno che la dea mi inviava e lì ci fermammo. La quercia, dove ebbi la visione, era accanto al Droimkriad. Lì vi era già un santuario dedicato alla Dea Bride. Le sue sacerdotesse del fuoco e druide erano le Beandrui e donne e uomini di conoscenza venivano a consultarle. Furono loro a restituire il sapere druidico alle poche druide britanne superstiti al massacro dell'isola sacra. Cildara, la capanna della quercia, fu il nome che scelsi per la mia nuova casa sulle fondamenta dell'antico santuario della dea. Cildara divenne la casa madre. Avevo 26 anni, ero badessa, avevo fondato 3 monasteri e già più di un centinaio di sorelle spirituali seguivano la mia regola. La costruzione di Cildara richiese 7 anni. Intorno al monastero si formò una vera e propria città monastica. Tutto ruotava intorno alle nostre attività e ai pellegrinaggi che venivano compiuti a Droimkriad per vedere la sacra fanciulla dei miracoli, la giovane badessa. Più di 3.000 tra monache e monaci vivevano ormai nelle due case separate della nostra comunità. Nella chiesa celtica non era strano che una donna in qualità di badessa governasse entrambi i rami di un monastero. Noi monache godevamo di maggior prestigio e di un più alto rango rispetto ai monaci, i quali invece facevano per noi i lavori manuali, che fornivano il cibo. Proprio come nelle antiche società matrifocali che tu hai riscoperto, sorella Maria, l'uomo era il custode del benessere della donna. Naturalmente, i vescovi continentali di quel tempo erano scandalizzati dal potere che le donne, in erio, esercitavano nel ministero sacerdotale. Nibugì, una delle fanciulle del fuoco, che dai tempi del druido Maitin era nel mio cuore e ora mia consorella, aveva una speciale abilità nell'identificare i pozzi. Il suo rapporto con l'acqua era molto stretto e lei soleva benedire le pietre su cui pregava, versandovi sopra una goccia di acqua del pozzo della sua terra. La sua gente credeva nell'anima invisibile dell'acqua. Per lei i pozzi erano uteri della terra, come nell'antico culto della Grande Madre. Io spesso pregavo con lei e osservavo il suo rito. Accanto al monastero sgorgava un'acqua che brillava nelle profondità di un piccolo pozzo. Andavo a sedermi sul bordo del pozzo, cercando il silenzio e la solitudine. Pregavo l'acqua e la ringraziavo per il lungo, infinito viaggio con il quale collegava tutti i viventi e conservava memorie del flusso della vita. Era il periodo della mietitura ed io osservavo alcune spighe che gli zoccoli di qualche mucca avevano calpestato. Erano quattro e si erano intrecciate come a formare una piccola ruota di medicina che segnava le quattro direzioni intorno a un centro quadrato. Le quattro spighe unite al centro si protendevano verso l'esterno, ciascuna in una diversa direzione. Quando presi con la mano un po' d'acqua dal pozzo per benedire me stessa, alcune gocce schizzarono verso quella strana croce e si posarono su ognuna delle quattro spighe. La Dea Bride voleva dirmi qualcosa? Improvvisamente intuì che era la croce perfetta per le mie preghiere, poiché univa armoniosamente il simbolo cristiano e quello del culto antico, che come druida avevo appreso, la ruota che unisce le quattro direzioni con le loro medicine. Presi delle spighe e tentai di rifare con le mani ciò che apparentemente si era formato per caso nel terreno. Il risultato fu una piccola rosa dei 20 di spighe, poi chiamata la croce di Brigit, che dopo 1500 anni ancora viene intrecciata nel giorno di Imbolc e posta sugli altari dalle consorelle che seguono la mia regola. Un giorno, durante il digiuno quaresimale, visitai il vescovo Ibar. Il poveretto non aveva null'altro da offrirmi che pane secco e maiale essiccato. Io li accettai e condivisi il suo pasto, nonostante il divieto di mangiar carne in quei giorni. Non fui mai rigida rispetto alle regole, preferivo sempre la gentilezza e la compassione e come te, sorella Hildegard, solevo crearmi da me le mie proprie regole in modo da fluire in pace e tolleranza con le situazioni che di volta in volta mi si presentavano. La mia vita come Brigit, incarnazione e figlia della Dea Bride, fu sana, ricca e felice. Lavorai ogni istante e condivisi tutto con tutti, questa era la mia missione. E non fu difficile. Il giorno di Imbolc, nel mio 70° anno d'età, al crepuscolo, uscii per una passeggiata nei campi gelati. Mi sentivo strana, come se stessi passeggiando su una linea di confine. Era la linea che unisce le dimensioni ed io la conoscevo bene, perché la attraversavo in continuazione, ma sempre con la certezza di tornare. Quella sera mi sentivo diversa, quasi invisibile e pervasa da una dolcezza e da una pace che non avevo mai provato prima. I contorni degli alberi brillavano e si sfocavano, ed io sentivo che questa volta non avrei riattraversato la linea. Chiamai Derlugdaka, che era tornata con noi dopo la morte del suo amato, e le affidai la guida delle nostre case. La sorella era più anziana di me, ma sembrava che avesse più tempo di fronte. Lei aveva portato in ognuna delle nostre case e luoghi di preghiera il sacro fuoco di Imbolc, fin dal tempo del druido Maitin. Nelle sue mani potevo mettere serenamente la vita della nostra comunità. Poi andai alla buca del fuoco, che ardeva perenne accanto al nostro luogo di preghiera. Mi misi in meditazione. Vidi tutte le persone che avevo amato. Mia madre Brocassa, le mie buone madri adottive, Tuam Night, Mongfind e Monnena, il druido Maitin, mio padre Dufak, tutti coloro che ci avevano donato terra e bestiame e aiuto. Il mio cuore era colmo di gratitudine. Ero stata povera tutta la vita, eppure mi sentivo ricca e potente. Le sette sorelle con cui ero partita si posero a semicerchio intorno al sacro fuoco, cantando. Sorrisi, pensando che quel rito non aveva nulla di cristiano. Era la dea che ancora invocavamo nei nostri cuori, sebbene ufficialmente con un nome diverso. Rimasi a guardarle, mentre gli occhi mi si chiudevano dolcemente, e quando si accorsero della mia immobilità, me ne ero già andata da un po'. Da dove mi trovavo, vidi il sacro fuoco guizzare, come per salutarmi. In fondo ero la figlia di Imbolc. Ma tutti i presenti interpretarono il segno come un altro miracolo. Così divenni Santa Brigida di Kildare, che era Cildara, patrona di Eriu, delle ostetriche, dei figli non riconosciuti, delle mucche, delle mungitrici, delle viaggiatrici, dei focolari, delle fontane e delle guarigioni. Ma per la mia gente sono e rimango la figlia di Imbolc. Quando ero in vita vi erano 20 sorelle guardiane del sacro fuoco. Dopo la mia uscita dal corpo ve ne furono sempre solo 19, rimanendo io stessa la 20ª. Ciascuna aveva il proprio turno nel controllare il sacro fuoco ogni notte a rotazione. Ma quando giungeva la 20ª notte, la 19ª sorella metteva il ceppo vicino al sacro fuoco e diceva: «Sorella Brigit, controlla il fuoco, questa è la tua notte». E il fuoco veniva lasciato lì. Il mattino seguente la legna ardeva ancora e il sacro fuoco era rimasto acceso perché io ho continuato a essere la figlia del fuoco sacro, anche da dove mi trovo ora. Così io, Brigit, figlia di Bride, cerimoniera del fuoco e dell'acqua, viaggiatrice e iniziatrice in questo sacro cerchio, ho parlato. Le sorelle si alzarono in piedi e girarono in cerchio 3 volte intorno al sacro fuoco, in senso orario. Fu fatto passare il calderone con l'infuso di salvia e sambuco e tutte bevvero. Poi Sabina versò un po' di infuso sul sacro fuoco come offerta perché gli spiriti fossero benevoli durante il suo racconto. Le sorelle si sedettero